In ogni religione, dove viene riconosciuta e proclamata una divinità, soprattutto con caratteristiche soprannaturali, vi è un sacerdote, cioè un ministro di culto con funzioni sacrali esclusive. Anche nella religione ebraica espressa prima della venuta di Cristo vi erano dei sacerdoti, uomini che l'Eterno aveva scelto secondo la sua sovrana podestà. Nell'Antico Testamento vi erano tre tipi di sacerdozio: quello aaronico, proveniente da Aronne, il fratello di Mosè, il sacerdozio levitico, per gli uomini della tribù di Levi, e il sacerdozio speciale di Melchisedec, re di Salem. I sacerdoti dell'Antico Testamento, come ministri di culto, avevano compiti specifici ed esclusivi che andavano dalla cura del luogo di culto, cioè il Tempio, all'offerta dei sacrifici e il pronunciamento del perdono per i peccati. Erano messi da parte dall'Eterno come mediatori tra Dio e l'uomo. Il sacerdozio dell'Antico Testamento rivela che Dio non si occupava direttamente della gente peccaminosa, ma lo faceva tramite attraverso i sacerdoti messi da parte per quello scopo. Questi sacerdoti erano comunque inadeguati, temporanei, e i sacrifici che offrivano non potevano togliere i peccati. Così si esprime l'autore della lettera agli Ebrei. La legge, infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente, anno dopo anno. Altrimenti si sarebbe cessato di offrirli, perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati. In quei sacrifici, invece, si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Ebrei 10.1.4. Dunque, attraverso quei sacerdoti, l'Eterno annunziava e visualizzava il bisogno umano, sia di un mediatore sacerdotale, sia di un sacrificio per il peccato, e contemporaneamente questi intermediari raffiguravano ciò di cui vi era bisogno, ma erano inadeguati per soddisfare quel bisogno. Chi non ha compreso il valore spirituale dei sacerdoti e del sacerdozio ebraico è destinato, come la religione cattolica romana, a imitare i riti giudaici e compiere uno degli errori più gravi e deleteri rispetto alla fede cristiana tramandata una volta per sempre a chi ha posto fede in Cristo Gesù. Gesù, il Figlio di Dio, fu in grado di soddisfare il bisogno dell'uomo di avere un sacerdote utile quanto efficace e di compiere un sacrificio valido per il peccato. Fin prima della creazione del mondo, Cristo fu messo da parte dal Padre per essere il nostro sacerdote e l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, compiendo un sacrificio una volta per tutte. Ancora l'autore della lettera agli Ebrei mette in evidenza questo aspetto facendo un confronto tra i sacerdoti umani e quello divino. In quei sacrifici, si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato». Allora io ho detto: «Ecco, io vengo nel rotolo del libro e scritto di me. Io vengo per fare, o Dio, la tua volontà». E, mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Ebrei 10.3.14. Dunque, ciò che i sacerdoti dell'Antico Testamento svolgevano nel tabernacolo terreno, Cristo lo ha svolto in quello celeste, perché il loro lavoro era una rappresentazione limitata e terrena dell'opera completamente sufficiente di Cristo. Così si esprime sempre l'autore della lettera agli Ebrei. Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano di uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario. non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Ed è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Ora, dove C è il perdono di queste cose, non C è più offerta per il peccato. Ebrei 9.1.1.12.26.10.1.8. Dunque, l'unico sacrificio valido per i peccati dell'umanità è stato già offerto una volta per tutte dal grande e celeste sommo sacerdote. Se così è, che bisogno ci è ora di un sacerdozio terreno che continui ad offrire sacrifici per il perdono dei peccati? Perché la religione cattolica romana vede nel sacramento del sacerdozio la potestà spirituale di consacrare e offrire il corpo e il sangue di Cristo? Nel sacrificio della messa, rito che rinnova il sacrificio della croce, vi è una sola risposta: perché non ha compreso il sacerdozio dell'Antico Testamento e neppure l'opera di Cristo e il suo sacerdozio simile a quello di Melchisedec che non si trasmette. Per comprendere l'errore fatale commesso dal cattolicesimo nell'istituire dei sacerdoti, può essere utile considerare la parola sacerdote in greco. Sia nel Nuovo Testamento che nell'Antico viene adoperato il termine ieraeus con il significato di santo o persona consacrata messa da parte per Dio. Questo termine non va confuso con il termine presbiteros, che vuol dire anziano, colui che ha il compito di guida. Per non essere di parte, riporto una nota pastorale di uno studioso cattolico che si trova nel Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento delle Deoniane, di Bologna, pag. 1621, in merito al termine sacerdote. Sorprende il fatto che nel Nuovo Testamento il termine sacerdote sia molto usato per indicare i sacerdoti giudaici, ma non sia mai usato, neppure una volta, per indicare i presbiteri o i vescovi, ossia quelli che in seguito invece hanno accaparrato quasi solo per sé questo titolo. Nonostante che il cattolicesimo romano riconosca l'evidenza che il termine sacerdote non sia mai usato neppure una volta per indicare i presbiteri o i vescovi, come mai degli uomini vengono ordinati sacerdoti e consacrati vescovi di Gesù? Nel Nuovo Testamento, e stiamo parlando dell'autorevole parola di Dio, non troviamo mai un gruppo di uomini che siano stati scelti da Dio per guidare la Chiesa universale e che abbiano i privilegi e i poteri della mediazione nella Chiesa neotestamentaria. Tra Dio e gli uomini vi è un solo sommo sacerdote e solo un mediatore. L'Apostolo Paolo non lascia dubbi. Questo infatti è buono ed accettevole davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Vi è infatti un solo Dio, ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, 1 Timoteo 2.36. Eppure, nonostante questa chiarezza, il cattolicesimo romano continua per la sua strada. Ecco un'altra nota pastorale, di un cattolico romano a pagina 1749. Anche se il Nuovo Testamento non usa mai i termini sacerdote nel senso di ieraeus o sacerdozio nel senso di ierateuma, per indicare il ministro ordinato o il ministero, la tradizione non ha temuto di farne uso. La tradizione, ecco la maledetta causa colpevole di disubbidire la volontà di Dio. Quando Gesù rimproverò i religiosi del suo tempo di trasgredire la volontà di Dio causa la tradizione, denunciava un atto che, nonostante il suo rimprovero, continua a perpetuarsi nel corso dei secoli. Mentre il cattolicesimo romano ha stabilito una casta di sacerdoti con funzioni intermediarie tra Dio e gli uomini, nel Nuovo Testamento troviamo che tutti i credenti sono sacerdoti e la Chiesa stessa è un regale sacerdozio. Tutti i figli di Dio sono sacerdoti, non nel senso che offrono dei sacrifici per i loro peccati e per gli altri, ma nel senso che hanno tutti un accesso diretto al Padre tramite la via che è stata aperta dal sacrificio di Cristo. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario, in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, Accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza, e il corpo lavato con acqua pura. Ebrei 10.1922. Poiché l'accesso a Dio era una prerogativa del sacerdote, se ogni credente ha libero accesso a Dio ne consegue che egli è un sacerdote. L'apostolo Pietro lo dice molto chiaramente nella sua prima lettera. Accostandovi a lui, come a pietra vivente rigettata dagli uomini ma eletta e preziosa davanti a Dio, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. 1 Pietro 2.4.5. E ancora, ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. 1 Pietro 2. Pietro non scrisse per un gruppo di uomini messi da parte per essere guide di chiesa, ma a semplici credenti. Dunque i figli di Dio non hanno bisogno di sacerdoti per avvicinarsi a Dio. E purtroppo il velo nel Tempio di Dio, stracciato da cima a fondo quando Gesù morì sulla croce, è stato riparato e rimpiazzato dalla religione cattolica. Questo velo verrà di nuovo stracciato quando un'anima sfugge al potere religioso del cattolicesimo romano e accetta quale Signore, Salvatore, sacerdote, sommo sacerdote, Padre spirituale, solo Gesù Cristo. Il tragico errore del cattolicesimo riguardo alla guida della Chiesa è che esso ha tolto i privilegi dati da Dio al credente e li ha dati a degli pseudo-sacerdoti. Ma per chi pone fede nella parola di Dio e non nella tradizione umana, Cristo è il personale e solo sommo sacerdote, il quale offrì se stesso una volta per sempre per riconciliarlo con Dio. Questione di fede, di ubbidienza e di coerenza, perché un'altra nota pastorale del cattolicesimo romano dice: la lettera agli ebrei tratta ampiamente del sacerdozio di Cristo, anzi, giunge a vedere in lui l'unico vero sacerdote, che porta a compimento il sacerdozio imperfetto e solo figurativo dell'Antico Testamento. Pag. 1621. Se Gesù viene riconosciuto come l'unico vero sacerdote, perché averne altri che non lo sono? Novembre 2005, Ellero.